America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero in studio, con me Moises Naim, columnist del Sole 24 Ore, uno studioso del Carnegie Endowment che sarà con noi durante questa trasmissione. Buongiorno Mario, grazie. Atmosfera da 4 di luglio, atmosfera da festa dell'indipendenza americana, siamo nel bel mezzo del lungo weekend, mercati chiusi dunque, un sospiro di sollievo dalla settimana scorsa quando abbiamo visto un tasso di disoccupazione piuttosto negativo e mercati in forte ribasso. Dunque si festeggia in America, si festeggia sui prati, si mangiano gli hamburger, parate dei veterani, parate degli allievi delle scuole, delle associazioni, delle piccole squadre di baseball e delle bande cittadine. Ci sono anche grandi concerti, concerti all'aperto per celebrare anche il fatto di essere in piena estate. A New York, ad esempio, suoneranno i Maroon 5. Sunday morning. In questa atmosfera celebrativa della potenza americana c'è però una nota, secondo me, un po' stonata. Proprio in questi giorni, secondo me non è un caso che sia uscito adesso così come nota polemica, è uscito, vi dicevo, il documentario di Oliver Stone, il grande regista che io ammiro molto, devo dire, South of the Border, un documentario che cerca di analizzare la relazione fra gli Stati Uniti e un gruppo di paesi sudamericani che cercano di emanciparsi nei confronti della potenza del nord. Il documentario è straordinariamente polemico. I cattivi sono al nord in America, i buoni sono al sud. Hugo Chavez è un bonaccione, il dittatore venezuelano, ve lo ricordo. Evo Morales, un grandissimo eroe. Sono tutti motivati dalla rivoluzione di Bolivar e hanno creato un movimento che dovrebbe essere rivoluzionario e che passa anche per l'Ecuador col presidente Rafael Correa, attraverso l'Argentina con Cristina Kirchner, Cuba naturalmente con Raul Castro e il Brasile con Luis Lula. Devo dire che Stone si è mobilitato, ha intervistato ognuno di questi leader, ha cercato di intervistarli in forma privata, non formale, non ufficiale. Emergono dei caratteri, delle personalità da queste interviste sicuramente interessanti, ma il messaggio di fondo, e cioè che questi sei presidenti sono alleati contro l'America, cambiano la natura del sistema in Sud America e gli Stati Uniti si ribellano e hanno creato una specie di complotto mediatico per gettare fango soprattutto sulle figure di Hugo Chavez e Evo Morales, è chiaramente controversa. Ho incontrato Oliver Stone subito dopo la prima qui a New York, ho chiacchierato a lungo con lui e gli ho fatto alcune domande che vi propongo. La prima è che lui tutto sommato sembra avere un'ottima opinione di Chavez. Lo Stone mi dice che questo film esprime esattamente quella che secondo lui è la realtà, e cioè che questi sei presidenti hanno cambiato la natura del sistema in Sud America, che le risorse del paese, dice Stone, appartengono al popolo e sono divise con il popolo, e che questi sei paesi vogliono l'indipendenza e il rispetto reciproco con gli Stati Uniti. Ecco, come vi avevo detto, abbiamo con noi in linea Moises Naim, un grandissimo esperto venezuelano, è nato in Venezuela, è stato anche nel governo venezuelano, conosce la realtà molto a fondo. Allora, Moises, cosa hai da dire su questi commenti di Stone? In questo momento tutti questi leader stanno fracassando, stanno crollando, e sono, ogni volta che c'è un'elezione in America Latina dove si avvicina Chavez, la popolazione vota contro la persona alla quale Chavez appoggia. Chavez è diventato politicamente radioattivo per i politici latinoamericani. E nel caso di Lula, il presidente del Brasile, che è un presidente molto molto esitoso, il Brasile è diventato veramente, c'è stato moltissimo progresso sotto Lula. Lula è molto amico di Chavez, Lula appoggia Chavez politicamente, però le politiche di Lula in Brasile sono contrarie, completamente contrarie, 180 gradi differenti a quelle che fa Chavez. Vuol dire, Lula, come Stone, applaude a Chavez sempre che quello che si faccia ai poveri venezuelani. Ma nel Brasile Lula non farebbe mai e non ha fatto mai quello che sta facendo Chavez in Venezuela. Sta facendo tutto il contrario. così che in questo senso Lula è stato un presidente meraviglioso per i brasiliani e pateticamente negativo per i suoi vicini, specialmente per i vicini venezuelani che soffrono sotto un presidente come Chavez che li sta facendo veramente del male al paese. Ecco, ho anche chiesto a Stone se non temesse che qualcuno potesse definirlo come anti-americano, visto che questo documentario esce proprio a cavallo del 4 di luglio. La sua risposta è ovviamente no. Perché, dice, perché dobbiamo essere realisti, perché la politica americana è sempre stata interessata a mantenere il controllo dell'America Latina e accusa la stampa americana di essere tendenziosa dicendo che Chavez è pericoloso. Sono totali fesserie, dice, le persone vengono uccise in Messico, Colombia, Honduras, non in Venezuela. Ecco, sentiamo Moises, cos'hai da dire su queste riflessioni di Oliver Stone? Oliver Stone è un esponente massimo di quello che io ho chiamato la necrofilia ideologica, in essere innamorati assolutamente, con passione totale per idee morte, per politiche che non servono, politiche che sono state politiche pubbliche, esperimenti sociali che sono stati provati una e un'altra volta e che hanno solo conducono alla miseria, alla povertà e perdere la libertà. Così che Oliver Stone applaude in questo film tendenzioso, falso, pieno di bugie, sbagliato, una idea in un paese e modi di fare nel quale lui mai accetterebbe vivere o di abitare. Oliver Stone non abiterebbe mai sotto circostanze politiche e sociali come quelle. Ecco, poi ho chiesto a Oliver Stone, che ho incontrato al Monkey Bar subito dopo la proiezione del film, abbiamo cenato in un gruppo di persone, che cosa pensasse di Barack Obama. Perché glielo chiedo? Beh, perché Stone è un esperto di presidenza, ha fatto un film su JFK, un film su Nixon, di nuovo ovviamente con un approccio un po' da sinistra. Dice che è molto difficile cambiare, lui stima molto Barack Obama e dice i presidenti vanno e vengono, e fra lobby potenti, le lobby bancarie, le lobby farmaceutiche, naturalmente aggiunge le lobby ebraiche, è molto difficile fare dei cambiamenti, secondo lui, in America. Ma Obama gli piace molto, spera che riuscirà a emulare quello che fu il messaggio di Kennedy. Ecco, sempre nel post film ho anche intervistato Tariq Ali, che ha scritto questo documentario per Oliver Stone. Ci sono sospetti, ma ci si domanda chi è che l'ha finanziato, perché devo dire il taglio è davvero molto propagandistico. E dunque a un certo punto di questo documentario si dice che Kirchner è stato un eroe perché ha chiuso il rubinetto dei fondi per pagare il debito estero, come se questa fosse stata una grande prodezza. E dunque gli chiedo, ma ci sono stati anche migliaia di italiani che hanno investito i loro soldi nei bond argentini? È davvero giusto non pagare per un paese sovrano? Ecco la sua risposta. È stato un grave errore per coloro che hanno investito. Conoscevano la situazione, semplicemente non dovevano farlo. Come è stato un grave errore per coloro che hanno investito nella British Petroleum. Si investe, ma a volte funziona, a volte no. Non puoi accusare il governo per aver provato a salvare il proprio paese. Ecco, qui avete un'idea della dicotomia, del fatto che, come diceva prima Moises, ci sia un po' di necrofilia ideologica, cioè salvare il paese non pagando dei debiti che sono stati sottoscritti in forma sovrana viene paragonato al disastro ecologico della BP. Dunque il sentimento è generalmente anti-business, le aziende, le banche, i finanzieri sono tutti cattivi. Ecco, io trovo che un documentario di questo genere, che poteva essere davvero molto interessante, ha perso un'occasione proprio per la faziosità con cui si è presentato al grande pubblico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, sempre in atmosfera 4 di luglio. Non possiamo che dedicarla a Bruce Springsteen e a quella che è considerata la canzone più suonata durante i barbecues del 4th of July, Born in the USA. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.